Eh sì, perché ringraziamo chi ha organizzato il concerto di finanziamento per la radio lo scorso sabato. Eh sì, perché un gruppo di ascoltatori ha deciso liberamente, insomma, di pensare questa iniziativa. C'è stata al 360 gradi, qui vicino. E quindi grazie da tutta Radio Onda Rossa, dai! Brevemente i contatti della radio. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Oppure potete scrivere al sottoscritto. All'indirizzo fantasma@ondarossa.info. E quindi dove indicarci iniziative, segnalarci autoproduzioni. E per sostenere Radio Onda Rossa potete farlo attraverso lo storico conto corrente postale. Il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volci 56 00 185, Roma San Lollo. Non per ultimo il numero di telefono è sempre lo stesso del 1977, con l'aggiunta una certa dello 06, però è sempre quello 06 49 17 50. Vabbè, però insomma, dopo tutte queste chiacchiere di presentazione, andiamo a presentare chi... chi ha affollato questa sera gli studi di Radio Onda Rossa. Con un'ondata, posso dirlo, un'ondata un po' fetida. Ridono sornioni, vabbè. Vabbè, insomma, comunque venite sempre dalla palude, no? Dico, venite sempre da una palude. Certo, è certo. Zaffate di melma abbiamo portato qui a Radio Onda Rossa. Eh sì, ci sono venuti a trovare questa sera negli studi di Radio Onda Rossa il collettivo Swamp, che significa palude. Eh sì, ciao a tutti e tutte, grazie di nuovo a Radio Onda Rossa e a Fantasma per averci ospitato una seconda volta. Io voglio prendere proprio il gusto di dire ciao Radio Onda Rossa, ciao Fantasma e ciao Luca. Ah, bellissimo. No. Un inizio cordiale è sempre un buon segno. Sì, certo. Ma io non mi ricordo neanche l'ultima volta che siete venuti. Quanto tempo fa è stato? Allora, ricordi un po' che insomma l'età avanza. Se non sbaglio era a ottobre per presentare il nostro terzo compleanno. E quindi adesso siamo arrivati a quasi 5 anni, quindi ormai è quasi 2 anni fa. Quindi dopo 2 anni siamo di nuovo qui, però questa è la prima volta di Marco, perché Marco non c'era. L'ultima volta purtroppo non ci potevo essere, sto giro, sto qua a Radio Onda Rossa, è una cosa bellissima. proprio la... Le farfalline nello stomaco, una cosa magica. Ah, hai detto una frase criptica che dopo andremo a svelare. Ricordati le farfalle nello stomaco. Presentiamo Perfetto. Un brano, anzi, magari iniziamo adesso. E va bene, insomma, ricordiamo insomma chi non ha ascoltato la trasmissione di un annetto e mezzo fa. Sì. E può riascoltarla in podcast sul sito di Radio Onda Rossa. Oppure possiamo rinfrescare la memoria a loro e dire qualcosa di nuovo ad altri. Chi è il collettivo Swamp? Siamo il collettivo auto-organizzato Swamp, ormai attivi nella palude, appunto da quasi 5 anni. A ottobre prossimo faremo questo compleanno dei primi 5 anni di auto-organizzazione. Siamo molto felici almeno di aver raggiunto questo obiettivo. Già pronta la torta. si collega Andeline. E quello che facciamo nel nostro territorio, diciamo, è legare e fare un po' da tramite di tutte quelle lotte, di tutte quelle esperienze di autoproduzione e di autogestione che negli anni poi, diciamo, a Latina sono sempre rimaste molto nell'ambiente paludoso, no? Nell'ambiente paludoso che fine a se stesso, invece noi, ecco, stiamo cercando di riportarle un po' e di collegarle tra di loro. E proprio per questo siamo venuti qui oggi per presentarvi uno dei primi eventi in vista dei 5 anni del nostro collettivo, che poi, insomma, ne parleremo per tutto il resto della puntata. Se volete seguire quello che facciamo, le nostre attività, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Collettivo Autoorganizzato Swamp, oppure potete andare sulla nostra pagina di Spreaker, cercate Radio Swamp, dove c'è la nostra radio, diciamo la piccola radio indipendente che fa 4 anni quest'anno. E quindi anche questo. Stiamo pieni di torte, pazzesco. Non è una scusa, insomma, per festeggiare sempre, è sempre una grande festa. Va bene, invece, andando invece al principio, no? Cioè, da dove nasce l'idea? Nato prima il collettivo, no? Allora, sì, il collettivo Swamp nasce in seguito... Dove vi siete conosciuti? Sì, beh, siamo più o meno tutti della stessa scuola e come prima cosa siamo conosciuti perché abbiamo una band insieme, cioè suoniamo tutti e quattro insieme, quindi già questo è stato il primo modo per, insomma, intraprendere un percorso che anche quello stiamo portando avanti. E in realtà però il collettivo vero e proprio nasce a seguito delle occupazioni che ci sono state nel 2012 contro la legge Aprea, una legge che sostanzialmente privatizzava completamente tutti gli istituti scolastici. A seguito di questa occupazione che ha visto tutte le scuole occupate nell'arco della seconda settimana di novembre del 2012, insomma, è stato un grande momento perché a Latina non si occupava da più o meno 20 anni e è stato un modo per intraprendere e riniziare tutta una serie di percorsi e di lotte. Quindi, diciamo, a seguito di quell'occupazione poi abbiamo deciso di fondare questo collettivo all'inizio dentro scuola, quindi dentro la nostra scuola, me in particolare al liceo scientifico Maiorana, e poi diciamo che nel corso degli anni siamo andati avanti, prima iniziando a fare le prime autoproduzioni, abbiamo pubblicato La Palude, che è la nostra fanzine autoprodotta a periodica, perché esce quando ci capita di farla uscire. E poi, insomma, siamo arrivati fino a qua più o meno, con tutta un'altra serie di eventi, autoproduzioni, lotte territoriali che nel corso della... E iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa, no? E le iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa, che speriamo di rifare poi anche in vista del nostro compleanno e del compleanno di Radio Onda Rossa. Bene, bene. Allora, io direi, dopo un po' di presentazione, magari cominciamo a passare un brano, così... Sì. Questi brani che c'entrano con quello che parleremo, insomma, più avanti, sono tutta una serie di brani recuperati da vecchi demo tape. Va bene. Allora ci siamo. Insomma. E allora ci siamo. Va bene. Dico, no, infatti, dopo la presentazione, perché il collettivo Swamp questa sera è negli studi di Radio Onda Rossa, giustamente. Allora, perché il prossimo giovedì, quindi il 30 marzo, faremo un evento al Circolo H in Piazza Moro, Circolo H prossimo alla chiusura, quindi uno dei suoi ultimi eventi, che si chiama 2017 Fuga da Latina. Questo perché? Perché quest'anno ricadono i 20 anni della pubblicazione di una storica fanzine a Latina che si chiama appunto 1997 Fuga da Latina, avventure e disavventure del punk pontino dal 1981 ad oggi, cioè il 1997. E, abbiamo deciso noi con il collettivo Swamp di farne una ristampa che presenteremo proprio in questa occasione, e abbiamo creato un momento non solo del concerto dove suoneremo noi Orange Jewish, che sono il gruppo, ecco, di cui parlavo prima, e una storica band, gli Impact, che vengono per la prima volta a Latina, All'inizio, insomma, prima di questo concerto, abbiamo pensato di creare un momento di dibattito dove ci confrontiamo un po' noi un po' più giovani con chi poi ha realizzato questa fanzine e chi ha intrapreso tutta una serie di percorsi di autogestione e di autoproduzioni a Latina, appunto dal 1981 fino agli inizi del 2000. Anche perché, insomma, diciamo l'età media del collettivo magari può dare un'indicazione. Allora, più o meno. Penso al momento speriamo il 21. Sì, forse 20. Sì, 20, dai, diciamo 20. No, è perché sei iniziato dopo le occupazioni, quindi quando avevamo 17 anni, 16-17 anni, adesso ce ne abbiamo 20, 21, 22. Sì, nel senso così. I 5 anni sono passati anche per noi. Sì. Allora, insomma, un collettivo di età media 20 anni, insomma, sì, quindi che non ha vissuto magari gran parte del punk direttamente, insomma, come o che è proprio nato, cioè proprio in quegli anni lì, quindi aveva pochi mesi quando questi gruppi, e non solo i gruppi, poi, perché in realtà noi durante questo momento di dibattito e anche la ripubblicazione di 1997 a questo fine, non tanto quello di mitizzare un passato oppure di rendere gloria a chissà chi o a chissà quali gruppi, ma capire e conoscere, più che altro raccontare una certa storia di queste autoproduzioni, di queste percorsi di autogestione, una storia che difficilmente si racconta a Latina, e questa è un po' la nostra chiave di lettura poi per tutto quello che facciamo. E quindi immagino siete andati, insomma, a ricercare quello che era stato il tessuto underground del vostro territorio, no? Esatto, siamo partiti da questa fanzine che è veramente realizzata molto bene, perché diciamo fa un po' da grande enciclopedia, no? Di tutto quello che c'è stato, e poi scavando, conoscendo una persona poi l'altra, abbiamo fatto tutta una serie di interviste che poi speriamo di far uscire in un libro, su un percorso che è un progetto che stiamo portando avanti da più o meno 3 anni. Di questo libro che poi racconti appunto tutta questa vicenda e diciamo tessa le fila del, no? Di quella che è stata la scena in quegli anni e quella che è stata Latina in quegli anni, quindi cerca di parlare di una Latina che non si dà per scontato e soprattutto cosa rimane di Latina. No, ma infatti partendo invece dal presente, la situazione di a Latina in questi giorni, insomma. Allora, la situazione a Latina in questi giorni è una bellissima domanda. Una domanda un po' troppo a 360 gradi, però. Sì, insomma. Allora, diciamo che per quanto ci riguarda, noi abbiamo creato una sorta di, diciamo, assemblea con tante individualità e tante collettività di Latina, proprio perché ce n'era il bisogno. Latina è sempre una città che è povera di tutto, ed è povera soprattutto di storie da raccontare. Allora, ne parlavo prima quando se ne racconta la storia, quella sbagliata, esatto, quella che preferiamo meno. Diciamo che io un esempio che faccio sempre è di Latina: si sa sempre che è nata sotto il fascismo, eccetera, eccetera, i coloni, bla bla bla bla bla. Ma per esempio non si sa che l'effettiva comunità sociale di Latina nasce ancora prima di Roma, quando le prime comunità autoctone e alcune colonie di altrove si insediarono in piccoli insediamenti sulle rive del fiume Astura. Quindi diciamo che e questa è una storia che non viene raccontata, come poi non viene raccontata la storia di questi gruppi e di questi centri sociali, di questi spazi di autogestione che sembravano completamente spariti, nel senso, noi quando che viviamo a Latina diciamo vabbè, ma è possibile un centro sociale a Latina? Boh, cioè la città con tutti i fascisti, le cose, ma quando mai, è impossibile. E invece ci sono stati e ci sono state tantissime esperienze che poi hanno avuto un loro percorso molto interessante, non solo a Latina ma anche nelle città limitrofe. Allora io direi, appunto, partendo da questa storia da raccontare, appunto, che non conoscono in molti, cominciamo a farla attraverso i suoni, perché avete portato una scaletta, appunto, che va a ripercorrere qualche gloria del passato, appunto, no? Sì, e quindi io direi di partire subito col primo pezzo e poi ne parliamo. Allora noi ci prepariamo. Allora, ci siamo pronti con il primo brano, lo vuoi annunciare tu? Sì, allora, loro sono i London 77 e questa è Quando sarai grande. Allora, London 77, che diciamo sono ora molto, sicuramente non sarò preciso nel raccontare questa storia, sicuramente mancheranno dei pezzi, però diciamo racconto quello che si può. Sono il primo gruppo certificato, o diciamo così almeno testimoniato, della scena punk di Latina. E stavo appunto dicendo prima che andando a cercare un po' tra le vecchie fanzine i vecchi dischi, ho trovato questo EP, che questo è un pezzo che dall'EP Giustizia, una cassetta che penso adesso sia completamente introvabile se non a casa dei London 77, e fu recensita su uno degli ultimi numeri di Tvor, Testa Vuota e Ossa Rotte, una storica fanzine hardcore, e ricevette una critica pazzesca, nel senso che proprio erano suoni brutti, vecchi, e insomma diciamo che nella critica c'era scritto che sembrava il punk vecchio e che ormai si era passato altrove, quindi era una cosa che non si sentiva più. E in realtà poi, come la maggior parte delle cose che poi esistono a Latina, ma alle volte arrivano molto dopo, e se non ricordo male, con una intervista che ho fatto a Fabio Furlan, uno dei bassisti dei London 77, che saluto da questi microfoni, e mi raccontò che il loro nome derivava appunto da quelli che erano i loro primi ascolti, quindi del punk londinese del 77, quindi per esempio i Sex Pistols e poi tutti quegli altri gruppi lì, insomma. E c'è una bellissima foto che trovate sulla pagina Facebook di 1997 Fuga da Latina, e una Polaroid di loro quattro, che sono, vabbè, per chi conosce Latina, vicino il mercato coperto, con la scritta London 77, una cosa bellissima, diciamo, un reperto interessante. Però questo testimonia la prima esperienza di autoproduzione del territorio, e poi in seguito a questo gruppo, e diciamo a questo nucleo di persone che ruotavano intorno a questo gruppo, sono nate le prime fanzine, tipo per esempio Mr. Kyrolic e molte altre. Quindi, ma hai avuto modo, insomma, di averle tra le mani queste fanzine, di leggerle? Allora, diciamo che molte sono riuscito a leggere tramite degli scan di persone che ce le hanno a casa, le hanno scannerizzate e me le hanno passate, però qualche copia l'ho avuta tra le mani, diciamo nella sua fragilità, perché si tratta di stampe fatte diverso tempo fa, e sono molto interessanti perché diciamo rappresentano un po' quello che voleva essere la prima ondata di punk pontino, cioè quella della scoperta di tutti i gruppi della scena più grande italiana. Addirittura c'è una storia secondo cui un punk a Latina andò a Milano al Virus e tornò carico dei dischi da questo Virus, che li diffuse per tutta la Latina. Insomma, sai, poi queste storie mitiche, la genesi mitologica musica del, esatto, dell'underground punk di Latina. Esatto, e quindi questo, diciamo, è il primo gruppo che dà inizio poi a tutto, diciamo. Vabbè, proseguiamo con la scaletta? Sì, sì, sì, proseguiamo con la scaletta. E andiamo con il prossimo pezzo, che in realtà non è di un gruppo completamente di Latina, ma sono membri di un gruppo di Latina, che sono questi London 77, e un gruppo di Roma, i Lager. E quindi adesso ci ascoltiamo i Fuori con l'Accuso con Nonazzi Admitted. Allora, fuori con l'accuso. No, la vuoi leggere quella cosa, insomma, che hai trovato? Sì, perché i Fuori con l'Accuso ne abbiamo trovato una, diciamo, una prova della loro esistenza anche tramite una compilation che è uscita qualche anno fa, e di cui devo ringraziare Roberto di El Nation che me l'ha passata, che si chiama la compilation Hate and Love, dove, diciamo, raccoglie un po' tutti i gruppi della prima ondata di hardcore italiano. E all'interno di questo di questa compilation c'è ci sono i Fuori con l'Accuso con un'altra canzone tratta sempre dallo stesso demo tape del 1987, che si chiama La Pernacchia on Tape, se non mi ricordo male, e dove c'è una biografia che, secondo me, cioè, poi magari se qualcuno di loro ci ascolta e vuole fare questa telefonata che ci dà la conferma, potrebbe essere, però a un certo punto nella loro biografia scrivono: il primo concerto nella facoltà di scienze politiche occupata insieme con Lager, Depressione e Minor Threat, e poi altri in vari centri sociali romani. Che noi ci siamo tanto interrogati su ma quando mai Minor Threat sono venuti a Roma, potrebbe essere vero? Boh, chi lo sa. Poi continua dicendo: nel 1986 siamo stati contattati da Alberto Sordi per comporre la colonna sonora di un tassinaro a New York, ma data la scarsezza di contenuti politici del film abbiamo declinato l'invito. Quindi probabilmente credibile. Potrebbe essere credibile, chi lo sa. C'ha il suo senso. Quindi magari se qualcuno veramente sa se queste cose sono vere, ce lo faccia sapere, perché sono molto interessato a saperlo. Bene, bene. Allora, io invece direi di prepararci al collegamento di questa sera. Quindi lo facciamo però preparandoci e lanciamo un altro brano. Eh sì, che lo riguarda, tra l'altro. perché questo, diciamo, questi primi due gruppi erano la prima ondata, quella che riguarda gli anni 80, diciamo prima ondata è un nome che ho dato io in questo momento, la seconda ondata, cioè quella che inizia intorno agli anni agli anni 90, comprende tutta un'altra serie di gruppi, tra cui i Latrina, con cui adesso ascoltiamo questo brano che si chiama Io non ti ascolto. Allora, quindi questi che abbiamo appena passato, insomma, erano appunto i Latrina. Eh sì, con Io non ti ascolto, un brano che abbiamo recuperato da una compilation che su vinile, se non ricordo male, ma adesso insomma ce lo dirà meglio il diretto interessato, che sicuramente si ricorda dov'era questo brano. Allora, intanto benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao Fantasma, ciao Luca, come state? Ciao Alessio, tutto bene, grazie. Benissimo, benissimo. Allora, bene, appunto, bene. I Latrina, partiamo dai Latrina. Ok, allora ho sentito che avete mandato, io calcolo, non sto sentendo la radio, però vi ho sentito che avete mandato Non ti ascolto, e praticamente Non ti ascolto è un pezzo che a me piace tantissimo, tra l'altro, e è uno dei pochi pezzi di Latrina che mi piace. E uscì su sul secondo demo tape di Latrina, che si intitolava Strada senza uscita. E uscì anche per questa compilation in vinile che si intitolava Il cielo visto dalla luna. Il cielo visto dalla luna, sì. Esatto. E da lì l'abbiamo recuperata. Ringrazio ZV, Vincenzo, che mi ha passato la... Infatti, guarda, vorrei cogliere l'occasione per salutarlo in diretta, il grande Vincenzo, che purtroppo stasera non può essere con noi, diciamo... aveva degli impegni. Comunque un grande saluto a Vincenzo. Bene, bene. Allora, di che anno parliamo, Alessio? Allora, i Latrina sono del 1990, il primo demo tape, ma Strada senza uscita, fine 91, ecco, come prodotto. Uscì nel dicembre, se non sbaglio, del 91. Allora, noi questa sera abbiamo iniziato un po' a ripercorrere appunto la storia, insomma, senza essere troppo enciclopedici, no? Sì, però un po' sì. La storia del punk underground dell'area di Latina, no? Bene. Tu quando cosa ricordi, insomma, dei primi giorni in cui ti sei affacciato nell'underground di Latina? Ah, guarda, nell'underground di Latina. Quando è venuto? In che modo? Ma io sono partito metallaro proprio, ero un grande appassionato di musica metal e ancora lo sono tuttora. Poi comunque nel corso dei vari ascolti mi ha portato al punk però non quello troppo commerciale, insomma i soliti Sex Pistols, Ramones, Clash, no, quello un po' più estremo. E quindi andavamo alla ricerca, diciamo, ecco, negli anni 90, che già era troppo tardi, di quei gruppi underground italiani, quindi ti posso citare i Wretched, gli Impact, che saranno dopodomani qui a Latina, che li porterà il collettivo Swamp, i CCM, diciamo le cose un po' più rare, tra virgolette, un po' più underground, gli Indigesti, l'Infezione, ecco queste sonorità qui. È un po', insomma, è una storia che va in parallelo nel tempo con il collettivo Swamp, che lo sta facendo adesso, appunto, andare a riscoprire, a diffondere, a far conoscere, appunto, questa tradizione, questa storia di Latina, insomma, che... Sì, sì, ma infatti io sono contentissimo che ragazzi come Luca e altri ragazzi, ecco, stanno prendendo le impronte di quei vecchi periodi senza essere troppo nostalgici, perché poi alla fine... però mi fa proprio piacere, perché sono dei ragazzi che si muovono bene, si danno da fare, veramente. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te. Allora, invece, ritornando insomma all'inizio di questo racconto, appunto, tra le altre cose, che ha attraversato i Latrina, no? Come ci si muoveva in quel periodo? Qual erano? Ma guarda, caro Fantasma, all'epoca, come ben te sai, siamo più o meno coetanei, non c'erano i mezzi tecnologici, tra virgolette, che ci sono adesso. Quindi ci si muoveva con i classici volantini, i cartacei, quindi si attacchinava la città di sera, di notte tarda, con la colla, ci si incontrava nel classico giro, il classico muretto, e si organizzavano questi concerti nei posti più vari, insomma, dalle cantine a delle grotte. Ad esempio organizzavamo dei concerti nei vari paesi qui nei dintorni di Latina, quindi Bassiano, eccetera, insomma suonavamo veri e propri scantinati, ecco. Era forse c'era meno, ma sempre, non voglio fare il nostalgico, ma c'era più genuinità nel fare le cose, secondo me, mm-hmm. Vabbè, più senza nulla togliere a, diciamo, a chi comunque crea concerti, certo, in questo periodo c'erano più difficoltà, ma forse erano più sentite le cose, forse perché c'era meno. Probabilmente. Ma anche perché magari essendo situazioni create anche per forza da contatti diretti umani, insomma, l'humus di spirito, insomma, era forse un po' più caloroso, un po' più sentito, un po' vissuto come un evento importante, insomma. Sì, no? Un evento importante, ma proprio perché non c'era nulla, calcola. Non c'erano proprio i locali adatti per fare proporre queste sonorità, no? Che erano per l'epoca erano violente, tra virgolette violente, erano molto pesanti, quindi veramente non era facile, ecco. Ed erano degli eventi veri e propri dove ci partecipava veramente tantissima gente, ecco, questo me lo ricordo veramente bene. Se tu dovessi trovare un filo comune, insomma, che legava appunto i gruppi che rendevano viva la scena di Latina, insomma, del periodo che hai vissuto tu. Sì, allora guarda, intanto non vorrei essere troppo critico su quanto riguarda la scena di Latina, perché ci sono stati tanti gruppi, però una scena vera e propria non è mai esistita, diciamo sempre dei cani sciolti, tra virgolette. Sì, c'era questo fermento, però non era una cosa esagerata come ad esempio Roma. Sì, che Roma era la capitale, è la capitale ed è una metropoli, però Latina, diciamo, c'era questo fermento piccolo ma vivo, non era una cosa eclatante, ma una cosa piccolina ma veramente viva, ecco. Arriviamo alla fanzine. La fanzine, sì, allora questa fanzine che poi è stata ideata da me, da Vincenzo e da Gabriele, un altro nostro caro amico, e nacque nel 97, e quindi qualche anno dopo, diciamo, il periodo Latrina, Senza Benza, Bleach, Cop Killer, qualche anno dopo, ma facciamo questa fanzine, libricino, ecco, chiamiamolo così, proprio per dare, per non far dimenticare, diciamo, questi periodi, ma anche i periodi precedenti a quelli che ho vissuto io, quindi il periodo dei London 77, degli FCA, di altri gruppi dell'Agropontino. E decidemmo di raggruppare i vari articoli, i vari volantini, i vari demo tape e portarli su carta, insomma, fare questa cronologia per quanto riguarda la musica punk e affine dell'Agropontino. E dove veniva diffusa la fanzine? La fanzine inizialmente a mano, quindi tra gli amici, insomma, girava tra di noi e nei vari circoletti anarchici, che vari, ce n'erano due o tre all'epoca, che nacquero a Latina in quegli anni. Comunque manualmente, diciamo, ai concerti, in qualche piccola distro, anche a Roma girava questa fanzine, perché avevamo dei contatti anche a Roma, e poi a parte Aprilia, ritornando nell'Agropontino con i ragazzi di Formia, di Bassiano, ecco, girava tra di noi, ecco. Ma invece come era vista la scena di Roma invece, da una... Ma la scena di Roma, calcola, noi ci spostavamo tantissimo a Roma, proprio perché a Latina i concerti erano molto pochi. Quindi in macchina facevamo queste carovane con le macchine o col treno per chi non aveva la macchina, e ci spostavamo nei vari squat, mi ricordo Piazza dei Siculi, Porta Prenestino, quindi negli anni 90, poi gli altri posti occupati tipo Torre Maura, mi ricordo all'epoca era uno dei primi posti anarcho-punk di Roma, se non sbaglio. Sì, direi proprio di sì. Allora, da queste tue parole invece trovo un altro parallelo, da una storia un po' che l'abbiamo sentita magari anche proprio da questi microfoni, appunto, con, si parlava di concerti, di organizzare i concerti, che vi spostavate verso Roma, insomma, per vivere di più la scena, però a un certo punto si organizza un grande concerto a Latina. No, vicino a Bassiano, sì, questo, ritorniamo indietro, quindi ritorniamo prima della fanzine. Nel 91 organizzammo questo concerto al campo sportivo di Bassiano, portammo i China d'Aosta, che comunque era un gruppo, e lo è tuttora, un gruppo storico italiano, e di supporto, supportato dai Monkey's Factory, che era un bellissimo gruppo di Aprilia, e fu un evento perché insomma portammo un grande nome a Bassiano. Poi questo, te immagina questo paesino, non so se ci sei mai stato. No, a Bassiano mai. Comunque molto bello, è piccolissimo, abitato da pochissimi abitanti, e calcola, questo campo sportivo era pieno zeppo di persone, e fu un evento. E lo organizzarono i collettivi Anaconda di Bassiano e Locomotiva, che era un gruppo legato a Democrazia Proletaria, perché credo che ancora esisteva Democrazia Proletaria a Latina. Quindi questi due collettivi portarono i China a Bassiano. con i Monkey's Factory, che poi divenne un gruppo storico a sua volta. Sono stato testimone una sera, insomma, quando ci è venuto a trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa Giampiero Capra dei China per un'intervista. La sera siamo andati a un concerto dei Bomb Machine e quindi lì c'è stato l'incontro, insomma, dopo tanti anni con Andrea, appunto, dei Monkey's Factory, e ricordavano appunto di questa sera qui. C'è anche un video di quel concerto, chi vuole andare a vederlo, insomma, su YouTube, e so che da poco è stato messo il filmato in video, insomma. Fu un evento, ci divertimmo tanto, una bella serata, ecco. Allora, veramente. Io direi, insomma, magari passiamo un brano. E poi parliamo, se hai la pazienza, insomma, di rimanere lì, insomma, passiamo al brano. Piacere. Grazie intanto a te, Radio Onda Rossa, a tutti quanti, veramente. Perfetto, aspetto, diciamo, che finisce il brano. Va bene, stai lì un attimo, una sorpresa grande. Allora, brano pronto, loro sono gli Scum of Society con Stato, Esercito, Morte. Grande pezzo. Allora, veramente un calcio dritto sui denti, e loro, insomma, Scum of Society, beh. Grandi. Devo dire che è un gruppone, è stato gli Scum of Society, guarda, io non capivo bene dalle cuffie, ma se non sbaglio era un pezzo del primo demo tape, tratto dal primo demo, sì. Fu stampato in 45 giri. Esatto. Allora, i Scum of Society nacquero nel 95, sempre da me, da Sweden e da Gabriele. Io negli Scum, i primissimi quindi, suonavo il basso. Poi dopo vari anni, perché li lasciai per un periodo gli Scum of Society, rientrai dopo anni e suonavo la batteria. I Scum of Society, secondo me, è un gruppo veramente fondamentale per quanto riguarda la scena di Latina. Ma è un gruppo fondamentale a livello nazionale e internazionale, perché è uno dei primissimi gruppi che diciamo ha suonato craft. Esattamente, sì. Ti parlo del 94-95, ecco. E poi abbiamo girato tantissimo, e veramente abbiamo fatto centinaia di concerti e abbiamo influenzato parecchie band. Parlo sempre nella nicchia, logicamente, certo. Però è un gruppo fondamentale. Insomma, sì, ma anche perché insomma riportava un po' di sonorità metal appunto attraverso il crust nella scena punk hardcore, no? Sì, sì, beh, all'epoca ecco eravamo influenzati dai Doom, dai Motörhead, da Hiatus, dai Discharge, diciamo queste band che comunque gli Amebix, che comunque avevano un'impronta metal, doom molto oscura, ma miscelata al punk più pesante, ecco. E allora, avete girato un sacco sia in Italia che all'estero, no? Che all'estero, sì, guarda, abbiamo fatto centinaia di concerti con gli Scammo Society, non voglio esagerare, però ne abbiamo fatti veramente tanti. All'estero io ho fatto con gli Scammo Society due tornei in Svizzera e poi senza di me hanno suonato sia in Scozia che in Inghilterra. Calcola, l'Italia l'abbiamo girata tutta. Insomma. Poi dovevamo fare tantissimi concerti sempre all'estero, ma per vari motivi non ne abbiamo fatti, insomma, per vari motivi personali e altre cose. E cosa ricordi, insomma, nel bene e nel male dell'attraversare così tanti posti? Nel male tante cose, tantissime, ma nel bene altrettanto, perché comunque sono delle esperienze che ti rimangono per sempre. E comunque, sai, in qualsiasi parte c'è il brutto e il bello, il marcio e il sano, quindi che dirti, è un po' bilanciata come cosa, tutto fa bagaglio, però devo dire che ho passato delle belle esperienze con gli Scammo Society, oltre quelle brutte, ma per vari aneddoti che non sto qui a raccontare, sicuramente più quelli belli. Bene, bene, bene. Allora, insomma, io direi che cerchiamo di arrivare ai giorni nostri. Abbiamo fatto un po' una cosa in velocità, magari nell'ultima parte della trasmissione andremo ad approfondire i suoni, insomma, che provengono da queste parole. Scammo Society, e poi qualche anno dopo decidi di abbandonare le velocità estreme, sì, e inizi il progetto Misanthropus. Anche se io, quando ho iniziato il progetto Misanthropus, gli Scammo Society ancora suonavo, erano ancora esistenti, perché i Misanthropus nascono nel 98. Allora, il primo demo tape è del 98, poi andiamo avanti con i vinili, quindi 2000, 2003, 2012 e 2015. E quindi nel 98 gli Scam ancora esistevano, perché gli Scammo Society si sono sciolti nella metà degli anni 2000, e quindi tenevo suonavo sia con Scam la batteria che con Misanthropus la chitarra. Logicamente Misanthropus le sonorità doom metal, però siamo sempre stati legati agli ambienti, diciamo ai posti occupati, a vari scuoti. Infatti facciamo tantissimi concerti a Roma in moltissimi posti occupati, e veramente devo dire che sono stati i primi ad accoglierci veramente bene, perché accettavano un certo tipo di suono. Ma sì, no, ancora qui mi viene da ricercare un parallelo appunto con gli Scammo of Society. Suonando in giro avete portato un po' un suono nuovo in quegli anni lì, così è avvenuto con Misanthropus, perché sì, insomma sì. In una come dire, in situazioni che magari spesso tendono pure a chiudersi in alcuni suoni, no? Sì, sì. Che sono quelli veloci del punk, di tutte le sue sfumature. Siete arrivati voi, insomma, rallentando il tutto in maniera sepolcrale, appunto, sì, con il doom dei Misanthropus, però avete trovato lo spazio negli stessi posti. Sì, abbiamo trovato lo spazio negli stessi posti, ma calcola che il doom in ogni caso è una musica d'avanguardia, secondo me. E secondo me i posti occupati tuttora sono veramente forse gli unici posti che fanno la vera musica d'avanguardia, ed ecco che ci hanno accettato veramente benissimo, insomma, i posti occupati di Roma proprio ci hanno accettato alla grande. Vabbè, proprio perché erano gestiti da persone che dei grandi musicofili, assolutamente, e lontani da dinamiche commerciali, insomma, mirate al grande, a un gruppo più allargato, insomma, no, di pubblico. Sì, assolutamente sì. No, mi ricordo un'altra storia un po' più vecchia negli anni, i Senvaitus, no? Sì, che come hanno iniziato a suonare non nel circuito metal perché suonavano troppo lenti, ma nel circuito punk, no? Ma assolutamente, i Senvaitus facevano da supporto ai grandi Black Flag, e i primi dischi dei Senvaitus uscivano per delle etichette che facevano prettamente punk. Sì, è vero, è fatto un bel connubio. E un'altra cosa, ne parlavamo prima a microfoni spenti. Per la SST stampavano i Senvaitus, che era la stessa casa, l'etichetta dei Black Flag. Già. E ne parlavamo prima a microfoni spenti qui con il collettivo Swamp, poiché John Lally dei Fugazzi ha abitato a Roma per molti anni, non so adesso se continua ad abitare a Roma, però era un frequentatore di Radio Onda Rossa, veniva alle iniziative e parlando con lui mi ha detto che c'aveva un conquilino lui. E chi era? Era Waino dei Senvaitus. Che capirai. Appena si è spostato a New York è andato ad abitare a casa di John Lally. Pensate. Belle queste cose. Torna tutto. Sì, sapevo che infatti Waino si conosceva con Ian McKay, e poi te mi confermi questo, insomma, quello che dici. Insomma, no, pure nei suoni dei gruppi che ci sono stati a Latina, comunque. Si avverte una sperimentazione, tu pensa ai fuori con l'accuso, poi ce ne sono stati tanti altri, ma i Bleach ecco, ma guarda, come ti dicevo prima, non c'è stata una scena di quelle gigantesche Latina, però c'era c'è tuttora gente veramente in gamba, valida, dei grandi ascoltatori di musica, veramente, quindi c'è una grande ricerca anche nel fare queste piccole band, c'era ricerca. Allora, visto che insomma siamo un po' come nelle civiltà arcaiche, tribali, sei un po' l'uomo della memoria dell'underground latino, perché ci sei sempre tu in mezzo, arriviamo a più o meno arriviamo al presente attraverso appunto il progetto Misanthropus, lo ascoltiamo, ti chiediamo la pazienza di rimanere lì e poi ma certamente ci sentiamo. Grazie. Dopo. Grazie. Ed eccoci qui, insomma, questi sono i Misanthropus. Vabbè, insomma. Questa era Trax, esatto. In inglese io non so, un grande. Non pronuncio bene l'inglese. Questo è un pezzo tratto dal primo LP del 2000. Allora, no, andavo un po' indietro nel tempo con i ricordi, perché poi sempre magari con la stessa modalità in cui si organizzavano concerti punk hardcore, anche tramite voi avete cercato di portare suoni diversi, appunto, a Latina e dintorni. Io ricordo, insomma, il concerto di Paul Chain. Quello pure fu una bella serata, era il 99, era il 99, e portammo il grande Paul Chain e The Black e Mario The Black di Donato. Li portammo a Latina Scalo, che comunque è vicinissima a Latina, e diciamo sempre Latina, dentro una scuola. E fu un bel concerto, poi te c'eri, insomma, e fu un evento, perché portare due personaggi come Paul Chain e The Black, insomma, non è facilissimo entrambi portarli nella stessa serata. Una bella giornata di musica. E io direi, a parte i suoni, non era neanche un caso che siano venuti loro, perché chi conosce Paul Chain e The Black sono due progetti appunto che vanno avanti da tanti anni, veramente fuori da logiche di mercato, di massa, autoproducendosi, no? Sì, sono stati totalmente. Sono tuttora dei personaggi sempre fuori dalla logica del mercato, diciamo quello più commerciale. Paul Chain incideva per Minotauro Records, che comunque è un'etichetta storica, ma sempre di nicchia, insomma, italiana. Stesso The Black incideva per Minotauro, poi attualmente incide per mi sfugge il nome, vabbè, c'ho un lapsus, te lo dico. Va bene. Dopo. E comunque sì, due personaggi unici in Italia, e anche loro con sonorità alla Fanbikus, insomma. Allora io direi invece di arrivare appunto ai giorni nostri, no? Cioè, dopo tanti racconti del passato, com'è la situazione attuale dal tuo punto di vista a Latina e dintorni? Guarda, questo sicuramente Luca ne saprà più di me attualmente. Io ti posso nominare delle grandi band che secondo me sono validissime a Latina, che sono il Zubbo. Posso nominare gli Elefante, però Luca attualmente ne sa più di me, quindi dovresti farla a lui questa domanda. Io non è che più di tanto sono aggiornato sulla situazione proprio attuale, non sono aggiornatissimo. No, però magari dal tuo, insomma, frequentare Latina, appunto, come energie, suggestioni. Guarda, c'è tantissima gente che suona, come sempre. La situazione è migliorata perché rispetto al passato, perché logicamente abbiamo il circolo Hemingway, che fa tantissimi concerti, anche se purtroppo chiude proprio questo periodo, però ha fatto migliaia di concerti, perché in 6 anni ha avuto una programmazione incredibile, e c'è anche il Sottoscala, che si muove molto bene. Poi ci sono vari concerti che si organizzano di qua e di là, e quindi c'è un grande fermento. Per quanto riguarda le band che suonano, ti ho detto, non ne sono molto a conoscenza, però so che ce ne sono veramente tante. E come ti ho detto, ti rinomino gli Zubbo, che secondo me è un bellissimo gruppo, e gli Orange Rouge, che comunque è il gruppo di Luca, che sono bravissimi e riprendono le radici del punk di Latina di quegli anni, quindi di fine 80-90, sono rimasti diciamo ancorati a quei suoni. Mi fa molto piacere. Bene, bene, bene, bene. E i tuoi complimenti ovviamente ci sono sempre ben graditi da tutti gli orangiusci che sono qui negli studi di Radio Onda Rossa. Quindi ti ringraziamo tutti quanti. Me li saluti i ragazzi, insomma, che sono lì. Ecco, sono contento. Grazie. Va bene, allora, quindi immagino sarei presente alla presentazione della ristampa della fanzine 1997 Fuori. Sì, perché faremo una specie di, chiamiamola chiacchierata, come quella che stiamo facendo stasera. Uh-huh. E a me le parole conferenza, dibattito non mi piacciono molto. E quindi ecco, faremo una chiacchierata prima del concerto degli storici Impact, e proprio parleremo di questa fanzine 1997 Fuga da Latina che i ragazzi della Swamp hanno ristampato. Se non sbaglio dovrebbe essere la quinta ristampa di questa di questa fanzine, diciamo, ha avuto questo successo, non sappiamo neanche noi perché. Però dovrebbe essere la quinta, se non la sesta ristampa. Vabbè, insomma, avete urlato forte nel 1997, ancora per 20 anni sentiamo l'eco di questa fanzine. Ma molto probabilmente, sai, caro Fantasma, l'abbiamo fatto con passione, e quindi a volte i risultati li vedi dopo. Parlo sempre di nicchia, logicamente, non voglio fare, sai, non abbiamo fatto niente alla fine. Però quel poco che è stato fatto con passione, quindi diciamo è un lavoro semplice e umile, e forse i risultati, anche se piccolini, si vedono. Bene, bene, bene. Allora io direi che Alessio, se non hai nient'altro da aggiungere, non so, ci salutiamo. Perfetto, aggiungo solo questo, ringraziamenti a te per la gentilezza e l'invito che mi hai fatto. Sei sempre il benvenuto. Saluto Luca, i ragazzi della Swamp e logicamente Radio Onda Rossa, che non è la prima volta che mi dà l'opportunità di parlare attraverso il vostro canale, insomma. Benissimo. Allora, no, ti volevo lasciare facendoti una domanda. Misanthropus, ci sono novità in casa Misanthropus? Misanthropus, ci sono delle date, però non le voglio dire, però una bella novità che posso dire, a parte che prepareremo un altro disco. Mm-hmm. Ritornerà a suonare il grande Massimiliano Bergo. Ah, quindi il nostro storico batterista. Ecco, questa è una news che ti do. News bella cicciotta. Sì. Molto, molto bella, insomma. Quindi ritorniamo alle origini, ecco. A proposito di Fuga da Latina, ritorniamo alle origini. Beh, come chiudere in modo migliore, insomma, andiamo veramente a chiudere il cerchio in modo perfetto. È vero. Va bene. Ok Alessio, un abbraccio, ti ringrazio veramente tanto. Grazie a voi per la pazienza, un abbraccio e buon proseguimento di serata e di programma. Ciao Alessio. A giovedì con gli Impact. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, presto, ciao. Ciao, ciao. Allora, noi continuiamo con la scaletta che ha portato il collettivo Swamp, dedicata al 100% ai gruppi che ci sono stati e che ci sono a Latina e dintorni. Ci spostiamo ad Aprilia, giusto Luca? Sì, che poi non è così distante da Latina, eh. Allora, niente, annunciamo il brano pronto appunto da Aprilia. Allora, di un gruppo di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, loro sono i Monkeys Factory, con 29 luglio 1900 dall'album Voglia di lavorare saltami addosso. Allora, appunto, Monkees Factory da Aprilia. Un grande gruppo, e questo è un grande album che si può trovare ancora in giro. Se non sbaglio, tutti i dischi dei Monkees Factory, demo tape, si trovano su Punk for Free, se non ricordo male. Quindi potete andare a sentire tutti lì. È stato un gruppo importante, come diceva anche Alessio prima, non solo perché ha suonato poi in quel concerto dei China, che era il 30 maggio 1992, che è importante per la nostra storia, perché lega due realtà, cioè quella del Nord Pontino, quindi di tutti i gruppi punk, di tutte le esperienze poi dei centri sociali di Aprilia, che era il Camarillo Brillo, occupato da alcuni militanti comunisti e dai Monkees Factory. E poi invece lo spazio liberato antiautoritario Animal House, che si trovava sulla Pontina, e a noi ci piace dire che era un po' il Leoncavallo Pontino, perché poi questo spazio fu raso al suolo e sulle macerie fu fatto un concerto che adesso avevo qui davanti il volantino con facsimile Monkees Factory e Toy Circle, insomma veramente delle grandi esperienze che poi hanno inciso abbastanza sulla vita di queste città, che poi sono dei piccoli nuclei urbani che orbitano intorno a Roma, e insomma anche poi Latina soffre le stesse, gran parte degli stessi disagi e degli stessi problemi che vive Roma, come se fosse una grande periferia, insomma. E passiamo subito a un altro brano, così ci avviciniamo a un altro settore. Esatto, che è quello, diciamo, che si incontrò con tutti questi ragazzi del Nord Pontino il 30 maggio del 92, cioè tutta l'area del Sud Pontino, quindi Formia, Gaeta, che ha avuto una bellissima scena piena di spazi occupati. Mi ricordo per esempio il C6H6 o lo spazio Mario Giovannangelo occupato, e tantissime, veramente tantissime autoproduzioni. Veramente loro hanno organizzato un sacco di cose, come insomma la Latina, Aprilia, eccetera. E quindi manderei il prossimo brano dei Rama, che è Rapina a mano armata, e il brano si chiama Diaframma. Allora, questi appunto i Rama, Rapina a mano armata, da Formia? Da Formia, sì sì, era uno dei tanti gruppi che ruotava intorno a questi spazi occupati. E tra l'altro mi stava proprio venendo in mente che c'era intorno a questi spazi occupati ci fu tantissima repressione da parte della polizia e non solo. E ci fu un episodio in cui, se ricordo bene, finsero un concerto dei 99 Posse, dove venne poi un sacco di gente per riaffermare, insomma, insomma un'occupazione di uno spazio che era stato da poco sgomberato, quindi anche poi ci sono queste storie un po', no, mitologiche, che, come poi da noi con gli Impact, adesso tutti gli amici nostri fanno: ma davvero gli Impact vengono alla Latina? Sì, forse è una burla. No, non è una burla in realtà, e quindi anche lì, insomma, anche se sembra l'estrema periferia di tutto, la super provincia, però in realtà ci sono, sono create tantissime esperienze di autoproduzione sia in ambito musicale che non solo. Ricordavamo adesso che all'interno di questa scena ci sono Simone Luccio e Rocco Lombardi, che salutiamo entrambi, e che hanno fatto tantissime poi altre cose nell'ambito poi del fumetto, come per esempio ricordavamo adesso a Microfoni Spenti La Mette e tante altre cose, quindi La Palude, no? Fa sempre un sacco di belle cose. Poi, vabbè, sabato scorso ci abbiamo avuto un'iniziativa di finanziamento, l'abbiamo ricordata all'inizio della trasmissione. Uno dei gruppi viene appunto da Formia, il Terzo Stato, che consigliamo che spaccano. Ecco, e quindi andate ad ascoltare anche questo gruppo dei nuovi. E allora, abbiamo un altro brano pronto. Sì, arriviamo, diciamo, verso la fine, perché poi col 1997, diciamo i primi anni 2000, c'è poi lo stacco che arriviamo noi subito dopo, nel senso c'è stato un periodo intorno tra il 2005 e il 2012 in cui più o meno tutto è finito, e questo dovuto a tantissime cose. Ho visto, insomma, facendo interviste, andando a leggere le fanzine varie, dovuto anche a tanta repressione, a tante persone che poi hanno voluto abbandonare Latina, perché diciamo alle volte Latina ti sfinisce e quindi vuoi scappare, e molti, tantissimi fuga da Latina e tantissimi abitano a Roma di quella scena lì, e hanno fatto tantissime esperienze poi all'interno della scena romana. E uno degli ultimi gruppi che io ho immaginato come uno dei gruppi finali è appunto uno di quei gruppi di cui parlava prima Alessio, cioè di quella vena punk che però sperimentava tantissimo, è fatta da un personaggio che durante un'intervista mi ha detto: no, io sono scappato da Roma per venire a Latina, perché voi a Latina siete una sorta di setta carbonara dove veramente si può sperimentare di tutto. E quindi io ho amato subito questa scena, e quindi pure questa cosa del romano che scappa e va nella provincia è stata molto interessante. Questo lo disse Stefano Di Trapani, che saluto. E quindi mandiamo il brano dall'album Caput, loro sono gli Shogogaz, e questa è Pausa Mensa. Coccolati la banda! Allora, appunto, ci avviciniamo al termine della trasmissione. Ci lasciamo un ultimo brano, appunto, per i saluti, e andiamo a ricordare un po' di appuntamenti targati Swamp Collective. Allora, il 30 marzo, quindi questo giovedì, al Circolo H in piazza Moro 36, facciamo appunto questo evento 2017 Fuga da Latina. Inizia alle ore 18 con il dibattito e la presentazione della ristampa della fanzine, e poi c'è il concerto aperto da noi, Orange Jewish, insomma, ci sono gli Impact, storica band che viene per la prima volta in palude. E poi un altro evento sempre per i 5 anni del collettivo Swamp, questa volta l'8 aprile al Sottoscala 9, e organizzeremo la presentazione del fumetto Prossima fermata, una storia per Renato Biagetti, che anche quello sicuramente è una cosa che è utile per il territorio che viviamo. E poi la storia di Renato è molto importante anche portarla al di fuori di Roma, insomma. Ma lei l'ha nominato, insomma, a inizio... No, invece no, era a microfoni spenti, ecco, sto facendo confusione. Però siete entrati in contatto pure con realtà fuori da Latina, insomma, no? Il dopolavoro ferroviario. Sì, di Velletri, che salutiamo, che sicuramente ci staranno ascoltando, e il laboratorio sociale Adelante di Rocca Massima, con Claudio che saluto, insomma tutta un'altra serie di collettivi e di realtà per creare una rete all'interno del nostro territorio. E diciamo, per a me quello che non piace di Latina è sempre stata la cosa di sentirsi parte di Roma, e quindi che tutte le volte tutti i militanti, e non solo, poi militanti, musicisti, artisti, si andavano a Roma per fare sia militanza politica che poi esperienze di autogestione, autoproduzione. Invece quello che vogliamo fare noi è l'opposto, cioè creare delle esperienze, delle reti e delle lotte all'interno del nostro territorio. Quindi per esempio adesso sono un paio d'anni che portiamo avanti insieme al collettivo Swamp la lotta del no corridoio, l'autostrada che vogliono costruire Roma Latina, con cui stiamo portando avanti veramente una lotta molto importante che riguarda anche parte del territorio romano, insomma. Quindi se volete supportarci, insomma, i contatti ve li ripeto: c'è la nostra pagina Facebook Collettivo Autorganizzato Swamp. Tra poco aprirà il nostro blog. Ecco, dobbiamo ringraziare Gabriele da Pisa, su Noblogs, quindi tra poco ci sarà aperta collettivoswamp.noblogs.org. E la nostra mail è collettivoswamp@gmail.com per qualsiasi informazione. E poi la pagina Spreaker, dove potrete ascoltare Radio Swamp, da cui mandiamo sempre i messaggi per Radio Onda Rossa. Benissimo, benissimo. E poi quando pubblicheremo la puntata appunto sul sito di Radio Onda Rossa, andremo a riportare tutti i contatti del collettivo Swamp. E dimentichiamo qualcosa? No, penso che ci stiamo su tutto. E come ultima cosa, ecco, ringraziamo di nuovo Radio Onda Rossa e Fantasma per averci ospitato qui. Come al solito siamo sempre a casa quando veniamo qui, e quindi speriamo di risentirci presto. E noi vi ringraziamo, insomma, della visita, della collaborazione. Vabbè, diciamo, incroceremo le nostre strade molto presto. E per chi può, ci vediamo giovedì a Latina. Dai, va bene. Allora, 22:37 minuti primi. Chiudiamo così la puntata realizzata con il collettivo Swamp di Latina. E quindi grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e per la pazienza. L'appuntamento con Do It Yourself Invasion è per martedì prossimo dalle ore 21 alle ore 22:30. Ci verranno a trovare, siamo in fissa con i collettivi. Invaderanno gli studi di Radio Onda Rossa il collettivo 1%, 1% Crew attivo a Paliano. insomma, che ci presenterà una un'iniziativa di imminente realizzazione. Il saluto più caloroso va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della propria libertà. Noi vi lasciamo con un brano che annunciamo, lo facciamo annunciare dal collettivo Swamp come occasione di saluto. La sigla di Radio Swamp, questi sono i Godzilla e le tre bambine coi baffi con Agropunk. Un saluto a tutti e tutte. Dai! Fedele, io sono un agropunk. fedele, io sono un acrobat. Donna Barbara il maiale, è il mio posto fedele, io sono un acrobat.